Gli ultimi 190 anni del Teatro Coppola. Nel 1800 Catania era una cittadina di meno di 50.000 abitanti, più piccola dell'attuale Paternò, per intenderci. Qui fuori chiaramente non c'era la ferrovia, non c'erano gli archi, non c'era neanche il porto. C'era il mare e un po' di barche, piccole. Quelle un po' più grandi erano costrette a mettersi alla fonda lontano dalla costa. E poi non c'era un teatro. Sì, c'erano dei piccoli teatri privati nelle case dei nobili. Il principe Biscari ne aveva uno qui a Palazzo Biscari, il barone di San Demetrio ne aveva uno nel suo palazzo ai Quattro Canti, però un vero teatro, un teatro stabile, municipale, non esisteva. Eppure la città era assetata di spettacolo. Nelle chiese e nei conventi si davano drammi sacri e concerti corali, in piazza Università si allestivano spettacoli gratuiti a cui tutti potevano assistere. C'era fermento fra i cittadini. C'era voglia di fare. Fu così che nel 1812, accogliendo l'istanza dei cittadini, il decurionato, più o meno quello che oggi chiameremmo il Consiglio Comunale, deliberò l'inizio dei lavori di costruzione di un grande teatro in Piazza Nuova Luce, l'attuale Piazza Teatro Massimo. Il progetto era così ambizioso che il teatro avrebbe dovuto gareggiare in bellezza e dimensioni con la Scala di Milano. I lavori furono affidati ad un architetto maltese, tale Giuseppe Zarabuda, ma si fece appena in tempo a cominciare che questo Giuseppe Zarabuda e tutti i fondi stanziati per la costruzione del teatro vennero dirottati altrove. Bisognava costruire il porto. Le navi, ancorate al largo, erano costantemente depredate dai pirati algerini e questo, chiaramente, mortificava i commerci. Bisognava proteggerle, bisognava costruire un molo foraneo, servivano i migliori architetti e molti, molti soldi. Il teatro doveva attendere. O come direbbe Brunetta oggi, con il teatro non si mangia. Come se questo non bastasse, arrivò una serie di piccoli terremoti e i cittadini si appropriarono del legname del cantiere del teatro per puntellare le proprie case. Passarono 6 anni. Poi nel 1818, ancora una volta per iniziativa dei cittadini, venne presentata una petizione al decurionato e si ottenne lo stanziamento di 800 onze per il riavvio del cantiere di Piazza Nuova Luce, ma i lavori andavano a rilento e i cittadini il teatro lo volevano subito. Allora si rivolsero direttamente all'intendente del Val di Catania, tipo il nostro presidente della provincia, e questi sollecitò il patrizio della città di Catania, cioè il sindaco, ad allestire al più presto un piccolo teatro provvisorio. Il decurionato a questo punto dovette cedere e individuò un magazzino portuale al fine di riadattarlo a teatro comunale. Si trattava del magazzino di proprietà del cavaliere Francesco Gravina Hernandez, sito in Contrada San Tommaso, oggi via del Vecchio Bastione. Qui. I cittadini avevano vinto. Il Gravina Hernandez era uno di loro e accettò di buon grado di cedere il magazzino. Basti pensare che in cambio di una concessione quasi decennale chiese l'usufrutto di un palchetto. C'era fermento fra i cittadini. C'era voglia di fare. E fu così che nel giro di soli 13 mesi Catania, grazie ad un'iniziativa decisa dei propri cittadini, ebbe il suo primo teatro comunale. Un bel teatro comunale. Era costato 2.000 onze trasformare questo magazzino portuale in un teatro lirico da 700 posti. Il decurionato aveva affidato l'allestimento degli interni, secondo una prassi che non passa mai di moda, a Salvatore Zarabuda, figlio del Giuseppe Zarabuda di cui sopra. Ad ogni modo, nel giugno del 1821, qui dentro c'erano 59 palchi, 24 file di banchi in platea, 16 lumi di ribalta, 24 fanali nei corridoi, 100 lumi per le scene, 2 fanali alla porta della platea, un lampadario di cristallo a 18 lumi e migliaia di cittadini entusiasti che applaudivano l'Aureliano in Palmira di Gioacchino Rossini. Quale clavicembalista e maestro concertatore era stato chiamato il 29enne Pietro Antonio Coppola, che tenne con onore questa carica sino al 1834, data in cui lasciò l'isola inseguendo la fama. Nei 13 anni in cui era rimasto, il Coppola aveva anche composto 3 opere originali per il teatro comunale: Il figlio bandito, L'Achille in Sciro e L'artale di Alagona, che lo proclamò astro nascente nel cielo della musica italiana e che gli valse la commissione, da parte del Teatro Valle di Roma, di un'opera semiseria, La Nina pazza per amore. Passarono 9 anni. La concessione del Gravina Hernandez arrivò a scadenza, ma il teatro di Piazza Nuova Luce era ancora ben lontano dall'essere ultimato. I cittadini, tuttavia, non avevano alcuna intenzione di rinunciare al loro teatro comunale e il decurionato, messo alle strette dai cittadini, fu costretto ad acquistare l'immobile di Contrada San Tommaso, questo immobile. Fu così che nel 1830 il teatro comunale provvisorio della città di Catania divenne teatro comunale stabile della città di Catania. Tuttavia il decurionato, dopo aver acquistato il teatro, rifiutò all'impresario Gioacchino Andreani qualsiasi sussidio per la gestione del medesimo e così la stagione venne interrotta e l'anno dopo l'impresario fallì. L'anno successivo, però, ritornò a Catania Vincenzo Bellini e il teatro comunale riaprì i battenti. Racconta il Mensa che il teatro era pieno zeppo. Non appena il Bellini fu veduto nel palco del principe Manganelli, mille voci di gioia proruppero da ogni labbro ad acclamarlo. Molti cittadini poi salirono sul palcoscenico, ove fu tratto Bellini festeggiatissimo. Le carrozze che attendevano il giovane musicista e i più cospicui personaggi furono mandati via e tutta la gente plaudente l'accompagnò a casa con le torce a vento. Tuttavia, in suo onore, in onore di Vincenzo Bellini, non si era data un'opera lirica, né sua né di altri, ma una tragedia, di tale Gioacchino Fernandez. Ora, il perché si fosse scelto di celebrare un autore, mettendone in scena un altro, è a tutt'oggi oggetto di dibattito fra gli studiosi, ma la tesi più accreditata è che siccome la prosa costa meno della lirica, e il decurionato aveva un po' il braccino corto, ma i catanesi volevano vedere e ascoltare l'opera del loro beniamino, non una tragedia qualsiasi, e tanto fecero che nel 1835 finalmente il teatro comunale ospitò la norma del maestro Vincenzo Bellini. Il 10 novembre i catanesi si recavano alla prima, ma erano tutti vestiti a lutto. La sera del 10 novembre fu ai catanesi dolorosa ad un tempo e festevole. Si rappresentava la norma per la prima volta. Ma quella classica musica veniva eseguita nella patria del suo autore quando appunto di lui era avvenuta la irreparabile perdita. I catanesi piangevano Bellini e applaudivano la norma. Applaudivano gli artisti che la eseguivano e mentre le mani si alzavano in segno di generale acclamazione, le lacrime scorrevano, ministre di un acerbissimo dolore. Così il quotidiano Il Telegrafo descriveva quella storica serata. E quella storica serata aveva luogo entro queste storiche mura dimenticate. Arrivarono gli anni 40 e con loro i moti risorgimentali. Catania e i suoi cittadini fecero la loro parte. Il 24 gennaio 1848, subito dopo l'insurrezione di Palermo, insorgono anche a Catania dei baldi giovani che come un solo uomo espugnano tutte le roccaforti della guarnigione borbonica, la obbligano a cedere il forte e a consegnare le armi e le munizioni e ad imbarcarsi per Napoli. Il quotidiano catanese, l'amico del popolo, scrisse: «Il giorno 17 febbraio 1848 in Catania fu giorno di festa di nazionale entusiasmo. Vinte le regie soldatesche, occupata la loro posizione e soprattutto piantato lo stendardo tricolore sulle mura formidabili del castello Ursino, che il solo aspetto dei nostri armamenti fe cadere da quei che lo munivano, non aveva Catania altri nemici a combattere, ed era tempo di rendere grazie all'altissimo valore ispirato ai nostri padri e al soccorso divino concesso alla causa della siciliana libertà. Spettacolo più magnifico ed imponente presentava la sera il teatro comunale. Quest'ampio ed elegante edificio erasi addobbato all'occasione e presentava vastissimo salone tappezzato interamente a cortine tricolori con larghe frange d'oro e d'argento, illuminato da circa 300 grossi ceri. I posti di platea erano quasi tutti coperti da giovani ufficiali delle squadre organizzate della Guardia Nazionale e della Guardia stessa. Stavano poi nei palchi, elegantemente vestite, tutte cinte di sciarpe tricolori, nobili dame e signore, delle quali una per palco teneva e faceva pendere dal loggiato una bandiera nazionale. Cantavasi l'Ernani del maestro Verdi e primo fra tutti fu dal pubblico salutato l'egregio tenore Ferrari Stella, che qual fratello italiano fu primo a gridare «Viva Pio IX! Viva Sicilia!» A quali parole corse quel grido sulla bocca di tutti. L'entusiasmo accrescivasi di punto in punto, ma pervenne nel suo colmo al finir dell'atto primo, quando una pioggia di fiori, di corone, di nastri, di poetici componimenti venne dall'alto dei loggiati, tra i quali pubblico e cantanti levaronsi concordemente e fu una voce sola quella dei mille gridanti gli evviva Pio IX! All'Italia! A Sicilia! Alla stretta del secondo finale, al trarre degli acciari del cavalier di Silva, le spade cittadine furono nuovamente sguainate e le donne ne brandirono parte battendole insieme a tempo di musica. Rialzata la tela apparvero sul palco altri cittadini che stringevano le proprie spade, le incrociavano insieme e genuflessi giuravano di non lasciarle mai se non morti prima che la causa siciliana pienamente trionfasse. Vincere o morire! fu il grido universale. E tutto questo accadeva qui dentro, nel perimetro di queste storiche mura. C'era fermento tra i cittadini, c'era voglia di fare. E ancora nel 1860, durante la rappresentazione di Giovanni de Guzman, la versione censurata dei Vespri Siciliani di Verdi, un cantante intonò l'inno alla libertà e alcuni studenti gettarono in sala dal loggione dei volantini con l'acronimo Verdi, Vittorio Emanuele Re d'Italia. L'autorità borbonica reagì sospendendo gli spettacoli, chiaramente. Nel 1865, terminato il regime borbonico, ritornò a Catania Pietro Antonio Coppola, che del regime borbonico era stato un asprissimo contestatore. Il Coppola era divenuto, nei 30 anni passati lontano dall'isola, un compositore di fama internazionale. L'opera Nina pazza per amore, commissionatagli dal Teatro Valle di Roma nel 1835, era stata una dei più grandi successi del decennio ed aveva fruttato al suo editore più di 1 milione di lire. Per il rientro di Coppola nella città di Catania fu organizzata una serata di gala proprio qui, al Teatro Municipale. Ma ancora una volta non si diede un'opera lirica a nessuno né di altri, ma una commedia di Goldoni, perché cambiano i potenti, ma rimangono le cattive abitudini. Nel 1876, finalmente, le ceneri di Bellini vennero portate a Catania. Il venerando maestro Coppola scrisse in quell'occasione una gran messa da requiem per il suo rivale di sempre e la concertò appunto qui, al Teatro Coppola. La gran messa fu cantata il 24 settembre e l'autore volle dirigerla personalmente nonostante i suoi 84 anni. Lo ricordano ancora molti quando sulla ribalta del comunale ne dirigeva le prove, agitato, convulso, commosso. Sembrava non un vecchio nonagenario, ma fosse tornato giovane, vivace, ardente. Il Coppola morì l'anno dopo, mentre il teatro comunale rivelava i segni della propria vecchiaia e le ultime file dei palchi minacciavano di crollare. Nei 10 anni a seguire, l'interesse dei catanesi per il proprio teatro andò scemando e nel 1887, dopo 66 anni di gloriosa attività, il teatro chiuse i battenti. Venne trasformato in un deposito. C'erano ancora i palchi, la scena, i velluti, ma al posto degli spettatori c'erano crusca, cereali e baccalà. Nel 1890, appena 78 anni dopo l'inizio dei lavori, il Teatro Massimo venne inaugurato, sostituendo di fatto l'ex teatro comunale. Sembrava quindi che la storia artistica di questo stabile fosse definitivamente terminata, ma la Catania di fine secolo era una Catania in espansione, c'era fermento fra i cittadini, c'era voglia di fare, era la Catania di Verga, di Capuana, di Martoglio, era la splendida Catania Belle Époque. E così, nel 1895, l'ex teatro comunale dismise la propria funzione di deposito e venne dato in gestione al Circolo Filodrammatico Artistico. Cominciò così la seconda gloriosa stagione di questo teatro. E furono ancora una volta i cittadini i protagonisti di questa riscossa, i cittadini che facevano parte del Circolo Filodrammatico Artistico. Furono loro che a loro spese ripulirono il posto e lo rimisero in funzione dopo 7 anni di cereali, di crusca e soprattutto di baccalà. E così, grazie a loro, il 26 gennaio 1895 Catania inaugurò la sua prima stagione di prosa in italiano e in dialetto. Il successo di pubblico e di critica fu immediato ed entusiastico e fu pressoché costante per i successivi 40 anni. Sul palco che stava qui, nei decenni a venire, si alternarono gli attori che hanno fatto la storia teatrale di questa città. Giovanni Grasso, Angelo Musco, Guglielmo Ferro, il padre di Turi, e lo stesso Turi ragazzino. Per loro scrissero testi originali Capuana, Martoglio, Verga, Pirandello, e tutto questo accadeva qui dentro, nel perimetro di queste storiche mura. Nel 1908, in omaggio al compositore morto nel 1877, il teatro comunale cambiò nome e divenne il Teatro Coppola, ma rimase pur sempre il teatro del Circolo Filodrammatico, che a sua volta, nel 1923, cambiò nome in Brigata d'Arte. Con gli anni 30, il periodo d'oro che era valso a Catania l'appellativo di Milano del Sud volse al termine. Lo slancio che aveva accompagnato la città negli ultimi decenni era irrimediabilmente smarrito. La Catania degli anni 30 è quella Catania pigra, bolsa, indolente che Vitaliano Brancati descrive nei suoi romanzi. Ed è proprio a questo periodo che risale l'ultima descrizione che abbiamo del teatro. La porta grande dà in un piccolo corridoio, il corridoio subito nella sala. Vi corrono tre ordini di palchi e il loggione. Le decorazioni sono di zecchino su fondo chiaro e l'interno è rivestito di carta rossa. Il soffitto è un telone che si fregia di una serie di ritratti di concittadini illustri. In effetti, un telone era stato posto circa a metà dell'altezza originaria del teatro. Serviva a nascondere gli ultimi due ordini di palchi, che erano ormai fatiscenti. Arrivò la guerra e il teatro chiuse. Poi l'8 luglio del 1943 una bomba alleata fu sganciata sul teatro e lo distrusse quasi completamente. Nel dopoguerra nessuno si occupò più di questo luogo. Sì, nel 1959 sembrò che qualcosa si muovesse, ma poi no, i fondi furono dirottati altrove. Più tardi si procedette a mettere in sicurezza quello che restava delle mura e l'antico e glorioso Teatro Coppola divenne il laboratorio scenografico del Teatro Massimo Bellini, il suo figlioletto piccolo. In tempi più recenti si decise di ristrutturare questo posto per farne una sala prove per l'orchestra del Teatro Massimo. I lavori cominciarono, ma si arrestarono presto. Dal 2005 al 2011 quel che resta delle mura del primo teatro comunale della città di Catania non è stato che un cantiere abbandonato e dimenticato. Finalmente, il 16 dicembre 2011, un gruppo di cittadini, di lavoratrici e di lavoratori della cultura e dello spettacolo, di cui faccio orgogliosamente parte, ha occupato il dimenticato Teatro Coppola con la ferma intenzione di restituirlo alla storia della città e alla storia dei cittadini a cui questo teatro appartiene di diritto, perché c'è fermento in città, c'è voglia di fare.